in primo piano. Giovedì 21 ottobre le aperture dei giornali sono diversificate, le riforme in primo piano per Il Sole 24 Ore, riforma del fisco in tre tappe, questa è l'apertura, mentre per Repubblica giustizia voglio subito la riforma, è Berlusconi che lo ha detto tornando a Roma, e la stampa giustizia al Premier accelera, poi c'è chi apre come il Corriere sui conti sospetti dello IOR. La vicenda Rai in tante altre aperture di giornali che poi vedremo. Io voglio partire nella lettura da un paio di articoli. Il primo che trovate a pagina 44 della stampa, pagina di spettacoli. Basta silenzio, Nuti è con noi. Stiamo parlando di Francesco Nuti. Nessuno l'ha dimenticato, ma il pudore, spesso colpevole verso la malattia e il dolore, hanno fatto calare sulla sua storia un silenzio attonito. Gli amici, i colleghi, il pubblico sanno che nel dicembre 2006 e dal dicembre 2006 Francesco Nuti sconta una punizione ingiusta, uno di quei castighi che nessuno merita e invece piombano da un attimo all'altro buttando all'aria le vite dei più sfortunati. La caduta in casa, l'emorragia cranica, il coma, l'operazione, poi l'inizio di un'esistenza a metà, una fatica immensa divisa con la madre, col fratello medico Giovanni, con pochi affetti tra cui il regista Giovanni Veronesi che non ha mai smesso di stargli accanto, ma soprattutto con se stesso. Da quella notte l'autore non parla più. E Fulvia Caprara racconta la storia di un documentario dal titolo Francesco Nuti e vengo da lontano di Mario Canale che tra due settimane verrà proposto al Festival di Roma e che narra proprio la vicenda, soprattutto negli ultimi anni drammatici, di una persona, un personaggio che ha fatto la storia del cinema italiano, Francesco Nuti, e che è letteralmente scomparso dalle notizie dei giornali dopo appunto quell'emorragia del 2006 e la lunga riabilitazione. Tra l'altro pubblica la stampa anche una lettera di Giovanni Nuti, il fratello che lo assiste, anche perché è medico, e che ha scritto in occasione della presentazione di questo film. «Quando penso alla storia di mio fratello Francesco, più che ricordare l'immagine di un volto che muta nel tempo, sento una voce, quella limpida e alta, ancora non adolescente, che canta Nel sole di Albano, quella un po' orgiastica delle prime prove di comico, la voce seduttiva e dolcemente toscana dell'attore di successo, infine la voce profonda, rotta e malinconica di un uomo maturo, ma provato dalla vita e da un dolore mai sanato. A quel punto, nel settembre del 2006, Francesco cade e la sua voce scompare. È silenzio. Come se il silenzio fosse davvero il suo destino, non solo il titolo del suo primo film. Poi, faticosamente, suoni stentati che intendono tutto, ma non cantano più. Ecco, ora vedo e sento con chiarezza che la perdita della sua voce è la perdita irrevocabile del suo canto. Basta silenzio, Nuti è con noi. Oggi la stampa dedica proprio una pagina a questo documentario sull'artista malato che da anni non riesce più a parlare da quel giorno della malattia. Segnalo un'altra vicenda dal secolo XIX che coinvolge un'altra artista, tutt'altra vicenda, Michel Hunziker. Sapete che nei giorni scorsi è stato arrestato Pietro Pingitore, uno stalker, uno che la perseguitava da tempo. Ebbene, il secolo XIX, visto che è stato arrestato a Genova, pubblica il delirio degli sms, dei messaggi, delle mail. Michel, ti amo, anzi ti sfregio. Marco Menduni, ecco le mail che il molestatore spediva a Michel Hunziker in prima pagina. Prima o poi ti ammazzo, prima o poi ti sfregio quel bel viso da... E qui ci vorrebbe un sonoro, insomma, a coprire la parola. Non è questa l'ultima mail che Pietro Pingitore ha inviato a Michel Hunziker prima di finire in una cella a San Vittore. Ce n'è una in cui chiede scusa per l'espressione usata, chiede perdono per aver usato parole non mie. Poi però aveva già acquistato il biglietto per lo spettacolo di Michel Hunziker a Genova ed è qui che è stato arrestato. Né amore né odio, lui dice, in realtà spiega di non aver mai pensato di fare del male alla showgirl, nemmeno di aver agito spinto da una crisi sentimentale. Michel è una donna di grande spiritualità, ha detto ai magistrati. Io speravo soltanto che ricambiasse la mia simpatia, che dura da tanti anni. Ora le chiedo scusa per tutte le preoccupazioni che posso avere creato. Però quelle mail, sei il mio amore, ti sfregio il viso, poi mail anche con espliciti riferimenti alla figlia di Michel Hunziker, conditi anche con la ricerca del perdono. Il riferimento alla figlia, ecco, ieri sera tra le belle sorprese c'è stata quella di vedere Aurora dolcissima e biondissima. Ho avuto come la sensazione che, che volesse venirmi vicino per abbracciarmi, insomma, deliri veri e propri. Ciao amore mio, tante mail che iniziavano così. L'appuntamento per il tè, domenica sarò, vabbè, non diciamo dove, insomma, ma vicino a casa di Michel Hunziker a Milano, ti aspetto, vieni, ti prego, ci prendiamo un tè, ti amo. E poi, quasi fosse una vecchia amante o un'amica, ti va bene se ci vediamo giovedì 25 marzo alle 21:30 davanti al ristorante cinese di fianco al laghetto antistante l'ingresso di Striscia la Notizia? Insomma, i deliri di Pietro Pingitore, che è stato arrestato, pubblicati oggi in prima pagina del secolo XIX, lo stalker arrestato perché perseguitava da anni Michel Hunziker. Le riforme sono nell'agenda politica in questi giorni e sono nelle prime pagine dei giornali, in particolare due: la riforma del fisco e la riforma della giustizia. Ieri Berlusconi è tornato a Roma. Priorità a famiglia, lavoro e ricerca. Il piano sul cantiere del fisco è messo in terza pagina e l'apertura del Sole 24 Ore, perché ieri Tremonti insieme a Berlusconi hanno ricevuto le parti sociali per parlare appunto di varie riforme, la riforma del fisco. In particolare Dino Pesole ne parla a pagina 3, parte il cantiere della riforma fiscale, Silvio Berlusconi in una sede inconsueta per il capo del governo ma non meno solenne, quale quella del Ministero dell'Economia, comunica al nutrito parterre convocato nella sala di maggioranza che quello in preparazione è un progetto molto ambizioso, al tempo stesso di grande responsabilità, insomma ripensare un sistema fiscale pensato 40 anni fa. Quali sono gli assi portanti di questa riforma allo studio? Quelli del libro bianco di Tremonti del 94, dal complesso al semplice, dalle persone alle cose, dal centro alla periferia. Le priorità saranno famiglia, lavoro e ricerca. Come tra l'altro Nicoletta Picchio ricorda sempre a pagina 3, sono i punti su cui batte da tempo il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ieri appunto ha detto ancora l'importanza di, pur tenendo conto della complessità della materia, di dare dei segnali in tempi brevi. E tra l'altro i tempi sono un po' scanditi dal Foglio in prima pagina: ressa al tavolo ovale, pronta la riforma del fisco, anzi no, attendere prego. Questo è il titolo del commento in prima pagina, non firmato come tradizione di gran parte dei pezzi sul Foglio. Ieri appunto in via 20 settembre il Premier insieme a Tremonti, con un affollamento di invitati, altri ministri, sindacati, Confindustria, Istat, INPS, Ragioniere Generale dello Stato, ha fatto capire dove Tremonti andrà a parare: ascolto delle richieste, tavoli tecnici, sintesi operativa e infine un master plan per cercare di ridurre le tasse. Entro quando? Questa è la domanda che si pone. Entro la fine della legislatura, attraverso una legge delega che sarà l'ultimo dei provvedimento dei 5 punti ad approdare in Consiglio dei Ministri. Anche se, fa sapere il Foglio, già qualche indicazione ci sarà entro il 12 novembre, segnatevi questa data, perché la nuova governance europea prevede che il governo invii a Bruxelles la bozza del piano nazionale delle riforme, che conterrà anche un capitolo ovviamente sul fisco. Ovviamente però, se si leggono, al di là della cronaca di quello che è successo, il Sole 24 Ore a pagina 2 e La Stampa a pagina 5, che vado a vedere, qualcosa già si sa. Perché si è parlato di molto delle esenzioni. Allora a pagina 2 il cantiere del Sole, il cantiere del fisco, va a concentrarsi con Marco Mobili proprio sulle 242 voci di agevolazioni e sconti fiscali oggi esistenti. Sarà qui la vera partita su cui si giocherà la riforma fiscale in attesa della riduzione delle tasse tanto promessa. Complessivamente infatti queste 242 voci valgono 142 miliardi di euro e da questo mare magnum sarà possibile reperire parte delle risorse necessarie per riscrivere il fisco del futuro, scrive Marco Mobili. La Stampa, pagina 5, con Alessandro Barbera. Eccola qui, la giungla degli sconti fiscali. Le 242 tra esenzioni, regimi speciali, detrazioni, deduzioni, sono 19 per la casa, altrettante per lavoro e pensioni, 22 per la famiglia, 36 per gli enti non commerciali, 51 riguardano il reddito d'impresa, 7 l'IVA, 31 le imposte di registro, 25 per chi paga le accise, 15 per chi compie donazioni, esenta di qua, deduci di là, l'effetto di erosione sul gettito è enorme. Eccola qui la cifra, appunto detta anche dal Sole 24 Ore, 142 miliardi di euro. Tremonti non la chiama evasione, ma dentro inevitabilmente c'è anche quella. Insomma, in questo sistema fiscale complesso, con deduzioni per qualsiasi tipo di possibilità, dalla casa, le famiglie, lavoro, pensioni, l'IVA, le accise, ecco che qualcuno, molti contribuenti, giocano su queste esenzioni per far entrare qualcosa che, insomma, non si può forse chiamare evasione fiscale, ma quasi. La giungla degli sconti fiscali, dal calcio amatoriale alle COP, questa pagina 5 della Stampa, appunto, c'è un viaggio in queste esenzioni. L'altra grande riforma di cui si parla è quella della giustizia. È il tema che è sul piatto dello scontro, si può dire anche politico, subito con i Finiani, perché appena Berlusconi accelera sulla giustizia, come il titolo a pagina 18 del Sole 24 Ore, rilanciando il testo anche delle intercettazioni, quello finito su un binario morto, ecco che, come scrive Stefano Folli nel suo commento, si rianima il confronto con i Finiani sulla giustizia. Infatti qua entrano in campo i vari retroscenisti, su Repubblica, il Cavaliere prende tempo, Fini non romperà adesso, a gennaio la conta finale, Francesco Bei, che parla proprio di giustizia come tema di scontro, confronto, d'altronde l'abbiamo già visto con la questione del lodo Alfano, retroattivo votato anche dai Finiani. Che succede infatti ai Finiani, che hanno votato in commissione il sì alla retroattività del lodo Alfano? Beh, come il Secolo d'Italia, organo dei Finiani, organo di stampa dei Finiani, testimonia, a quel punto si è scatenato un cancan, una serie di proteste di Finiani sul sito soprattutto di Fare Futuro, cioè la fondazione vicina a Fini, di critica per quello che è stato questo voto. Il via libera al lodo scatena la rivolta web della base finiana. A pagina 3 della Stampa, Fare Futuro, la fondazione è costretta, l'abbiamo sentita anche nel GR Filippo Rossi, costretta a spiegare no a una nuova piazzale Loreto. Ma certo, i siti sono stati presi d'assalto da molti finiani delusi. Ma come, avete votato la retroattività del lodo? Ma come, avete anche votato un altro piano di scontro, il no alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Pietro Lunardi, l'ex ministro che è indagato? Tanto che Fabio Granata, che è un finiano considerato anche di quelli, come dire, tra i falchi, fa un'intervista al Quotidiano Nazionale. Andrea Cangini lo intervista e dice: è stato un errore votare il lodo Alfano, ora ci vuole un DDL anticorruzione. Fabio Granata dice: abbiamo fatto due gravi errori, il sì al lodo Alfano retroattivo e poi abbiamo votato anche a favore di Lunardi, indagato a Perugia. Ora la contemporaneità di questi eventi ha dato alla nostra base la sensazione che avessimo rinunciato a difendere la bandiera che più ci caratterizza, ossia quella della legalità. Ma non è assolutamente così. Le do una notizia, dice Fabio Granata, tra qualche giorno presenteremo alla Camera un progetto di legge per combattere la corruzione. Lo presenteremo con chi? Con l'Italia dei Valori e il Partito Democratico. Beh, questa è una notizia politica sicuramente interessante che dà Fabio Granata. A proposito di politica, trovate ancora qualcosa su Berlusconi, come vuole riorganizzare il partito, il Popolo della Libertà, ma insomma questa è politica un po' noiosa, francamente. Se però qualcuno vi si vuole addentrare, c'è molto sul dibattito anche sull'organizzazione del partito. Mi interessa di più invece citare, perché c'è su tutti i giornali, insomma, la vicissitudine personale che coinvolge il Presidente del Consiglio riguardo alla causa di separazione con Veronica Lario. Tutti i giornali rilanciano, perché ieri è stata depositata in tribunale una memoria da parte dell'avvocato di Veronica Lario, una memoria integrativa che chiede torna alla richiesta iniziale. Veronica Lario chiede un assegno di mantenimento, tenetevi forte, da 3,5 milioni di euro al mese. Ebbene sì, è questa la cifra. I contenuti della memoria, trapelati ieri da Palazzo di Giustizia, leggo dal Corriere della Sera, dall'articolo di Angela Frenda, parlano di 3,5 milioni di euro al mese. E d'altronde c'è la residenza difficile da gestire, la residenza a Macherio. Sulle spese di mantenimento sarebbero nati i problemi. Per questa villa Berlusconi in 10 anni ha speso 20,4 milioni di euro, una cifra enorme. Solo di mobili sono stati spesi 683 mila euro in 10 anni. Per la sicurezza costa 487 mila euro l'anno. E quindi le spese di gestione sarebbero state quantificate dal Premier in 1 milione 800 mila euro al mese. Una offerta giudicata da Veronica Lario incongrua, 1.800.000 euro al mese anche per il mantenimento di tutto, incongrua. Veronica Lario chiede 3 milioni e mezzo di euro al mese di mantenimento. Non è politica, è TV, ma certo la RAI ancora esonda dai giornali per questa vicenda di Fazio e Saviano, con oggi il direttore, il presidente della RAI Garimberti, che risponde alla lettera di Saviano in prima pagina di Repubblica. Dopo che Saviano ha detto: caro Garimberti, ci dica qualcosa, Garimberti risponde: caro Saviano, garantirò la tua libertà, d'altronde ho vissuto come giornalista in Unione Sovietica e dunque non cedo sulla libertà, buon lavoro, farà la trasmissione. Ma insomma, di questa trasmissione non si capisce più nulla. L'ultimatum di Saviano al direttore generale sulla RAI è: entro domani i contratti o non se ne fa nulla. Io dico, non che sia una notizia poco importante, per carità, forse è un pochino più importante la riforma del fisco di questa, no? Che ne dite? Ma al di là di questo, è diventata una notizia per cui viene messa su Libero in prima pagina, così, c'è la foto di Saviano. Saviano al posto di Bersani. Secondo Maurizio Belpietro questa è la vera mossa, cioè far iniziare a fare un programma a Saviano, perché si vuole da parte di Repubblica lanciarlo come vero icona della sinistra. Per il giornale, i martiri del regime, i mantenuti da Berlusconi. Questo è in prima pagina, il titolo di prima pagina, 9 colonne. I mantenuti da Berlusconi sarebbero, per il giornale, Fabio Fazio, Roberto Saviano, Roberto Benigni, il professore Gustavo Zagrebelsky, Eugenio Scalfari e Concita De Gregorio. Cioè, gli autori stipendiati dalle sue case editrici spiegano al Cavaliere quali parole può usare e quali no. Fazio, Saviano e Benigni sono solo l'ultimo esempio, pagati anche coi suoi soldi per sparargli addosso. Eccola qui, i falsi martiri. Cioè è diventato questo una trasmissione. È diventato uno scontro di questo tipo. Saviano scontro Garimberti Masi. Questi tutti i titoli dei giornali per questa vicenda che è uscita dai binari di una trasmissione televisiva, è diventata una vera notizia, un vero motivo di scontro politico. La cronaca, vabbè, anche in questo caso la vicenda di Avetrana, che ormai si dice, si criticano le TV per quanto ne parlano, ma anche i giornali ne parlano tantissimo. Io non li critico, ma voglio dire, chi critica le TV dovrebbe criticare allora anche i giornali. L'ultima ipotesi, sapete, quella che lo zio ora sia in qualche modo una vittima delle donne di casa. Cioè non sia più lui l'assassino, ma addirittura qualcuno dice stava dormendo mentre qualcun altro uccideva Sara. Ora il paese riabilita il killer, reo confesso, è infatti Maria Corbi, inviata, uno dei tanti inviati da Vetrana sulla Stampa. Vi invito alla lettura di questo reportage di Maria Corbi, perché secondo me è quello scritto meglio sulla Stampa oggi a pagina 15. E poi vi voglio segnalare anche quello che Sandra Murri scrive sul Fatto Quotidiano a pagina 9. Sara, non guardate la TV, l'appello del procuratore. Sandra Murri è riuscita a incontrare un faccia a faccia al procuratore capo di Taranto, Francesco Sebastio, che non parla dell'inchiesta, ma dice cose interessanti proprio sull'effetto mediatico. A mia moglie e ai miei figli ho detto di cambiare canale quando sentono parlare dell'omicidio. La stessa cosa dico a voi, perché non solo non è utile, ma è dannoso per farsi un'idea e formulare un giudizio umano. Il procuratore dice di certo, di tutto quello che leggete c'è solo ciò che è agli atti. E agli atti ci sono solo due provvedimenti: la custodia cautelare in carcere per Michele Misseri e il fermo convalidato dal GIP di Sabrina Misseri. Tutto il resto è frutto di fantasie mediatiche. Un esempio, scrive Sandra Murri, ieri nella stessa giornata un TG dava la notizia che la zia di Sara, Cosima e sua figlia Valentina andavano in procura scortate dai carabinieri. Un altro TG dava per certo che Cosima, la sorella, il fratello e la figlia Valentina si stavano recando in carcere da Sabrina. Qual è la verità? Il procuratore risponde così: io non posso dirlo, ma non mi era mai accaduto prima ed è l'unica cosa che posso raccontare. Quando è stato arrestato Michele Misseri, fotoreporter correvano velocemente verso di noi con in spalle le telecamere, inseguiti dai giornalisti coi microfoni in mano. Non sapevamo più dove scappare per sottrarci a quell'assalto. Ho dovuto far chiudere tutte le porte d'accesso. Mi chiedo, tutto questo ha qualcosa a che vedere con il dovere di informare? Insomma, interessante l'appello del procuratore, intervistato da Sandra Murri sul Fatto Quotidiano, che dice non guardate più la TV. Se volete farvi un'idea distorta, fatelo di quello che sta succedendo. È cronaca anche, l'abbiamo sentito nel GR, l'ennesima notte, e si profilano altre notti così a Terzigno, perché c'è stato l'annuncio da Roma, come annuncia il Corriere della Sera, sì alla seconda discarica. Ormai è ufficiale, verrà aperta, almeno questa è l'idea. Il Mattino di Napoli mette in prima pagina anche che l'esercito è pronto a essere schierato per l'apertura della seconda discarica, dove protestano a Terzigno, insomma nel Vesuviano. E allora che succede? Succede che ovviamente si profilano rischi per quel che riguarda l'ordine pubblico. Il governatore della Campania Stefano Caldoro viene intervistato dal giornale da Guido Mattioni, dice: dico soltanto una cosa, c'è una legge e va applicata. Se la legge prevede che venga aperta una nuova discarica, così sarà. Insomma, perentorio Caldoro, che dice non ci sarà nessun vulnus, quella era già una ferita aperta comunque nella montagna, nel parco del Vesuvio, non l'abbiamo aperta noi, ma invece la rimargineremo con una prassi già usata in altre parti del paese. E tra l'altro ci sono alcuni presidenti di provincia, uno di questi, anzi un paio, saranno nostri ospiti alle 8.30. Uno di questi è del PDL, il presidente della provincia di Avellino, che però dice io non prendo i rifiuti di quelli di Napoli, e gli si chiede a Caldoro: non c'è imbarazzo del fatto che anche alcuni colleghi di partito, insomma, non dimostrano la sua stessa apertura in questo confronto? Proprio nessun imbarazzo, risponde Caldoro. Certe richieste localistiche non hanno alcuna prospettiva, questo era il percorso da fare, noi lo abbiamo fatto e lo devono fare tutti, perché Caldoro con un'ordinanza ha imposto a tre province, Avellino, Benevento e credo Caserta, di accogliere un po' dei rifiuti di Napoli. E ovviamente queste province dicono: ma perché dobbiamo accoglierli noi, visto che noi siamo autonomi, ci sappiamo gestire i nostri rifiuti? Ne parleremo alle 8.30, votate il sondaggio: secondo voi sono giustificate le proteste della popolazione contro l'apertura di una nuova discarica? Questo vi chiediamo e dovete votare su radio24.it. Sono la citazione finale, trovate ovunque sui giornali le notizie che arrivano dall'Europarlamento, che coinvolgono tutti noi, anche italiani, tutti i genitori. L'Europarlamento ha votato una nuova legge sui congedi obbligatori per madri e padri. Diciamo non cambia molto per le madri, perché già in Italia ci sono 20 settimane di maternità, però la notizia è che il pagamento non sarà più all'80% ma al 100% della retribuzione, attualmente invece è all'80% per le donne che sono in maternità. Ma importante è, per legge verrà stabilito che anche i padri hanno il congedo obbligatorio, anche i papà. La notizia è buona, a mio modo di vedere, dall'altra parte è una notizia cattiva, perché il congedo obbligatorio per i papà sarà solo di 2 settimane. E dunque, insomma, un'apertura a 3/4. L'Europa premia i mammi, così la titola al giornale. Ora la paternità è obbligatoria, e però, insomma, stipendio pieno, ma solo 15 giorni. Ma trovate molto su questo tema. Ci fermiamo, il GR.